La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. La tirannia ha sido derrotada. L'allegria è immensa. Si chiama Comandante ed è il documentario su Fidel Castro girato da Oliver Stone e montato da Elisa Bonora. Mai, come in un lavoro come questo, il montaggio è fondamentale. La ragazza è brava, la voglio con me, dirà Oliver Stone, vedendo alcuni lavori dell'italiana arrivata a Los Angeles da Milano, con in mano un diploma della scuola di cinema. La prima volta di oggi è quella in cui Elisa Bonora comincerà a lavorare con Oliver Stone. Sì, non finisce mai di imparare e non si finisce mai di fare delle cose nuove. Ogni lavoro è comunque emozionante, ogni lavoro, ogni volta che inizio un progetto, ogni volta mi chiedo se la farò a fare una cosa bella. A questo punto nei documentari, io sto facendo moltissimi documentari. Cause he gets up in the morning and he goes to work at nine. And he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Elisa Bonora è la montatrice preferita da Oliver Stone. La chiama ogni volta che c'è da lavorare su un documentario. È, per gli addetti ai lavori, una delle montatrici più talentuose in circolazione. E non è un caso che l'abbia scelta uno dei registi più esigenti e impegnati degli Stati Uniti come Oliver Stone, che ha sempre cercato di portare nella pancia dell'America un pensiero critico. Non è mica tutta la giornata, scava, scava! C'è stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non gli va mai di fare un cazzo. Questo posto lo odio già ed è solo una settimana. Una settimana orrenda, nonna. La cosa più dura che abbia mai fatto è stare in testa al plotone. 3 volte questa settimana. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a 5 metri da me e non me ne accorgerei neanche. Sono così stanco. La prima volta di Elisa Bonora è ancora lontana. Siamo nel 1986. Stone vince il premio Oscar con Platoon. Andando a ritirare il premio parlerà agli americani, augurandosi che quanto avvenuto in Vietnam non debba mai più ripetersi. The winner is Oliver Stone! Thank you for this Cinderella ending. But I think that through this award you're really acknowledging the Vietnam veteran. And I think what you're saying is that for the first time, you really understand what happened over there. And I think what you're saying is that it should never, ever in our lifetimes happen again. Oliver Stone sa benissimo cosa significhi essere volontario in Vietnam, perché lui stesso nel 67 si trovava nel paese asiatico con la 25esima divisione di fanteria e fu ferito 2 volte in combattimento. Tutto questo è ben presente nel suo lavoro, una sofferenza che si trasforma in bellezza e ricerca e che Elisa Bonora, la ragazza milanese arrivata a Los Angeles con il sogno di montare documentari, saprà mettere assieme. La prima volta di Elisa Bonora inizia qui, quando incontra il regista. Io sapevo da un amico caro che lui stava girando questo documentario su Fidel Castro e io sono affascinata da Fidel Castro, da buona italiana, anche Che Guevara e tutto quello che sa fare l'Unione Cubana. E ho chiamato il mio amico e gli ho detto: se c'è bisogno di una mano anche a montare 2 sequenze di Oliver, che sono completamente disponibili. Siccome io stavo in Cotrillo montando spesso con un regista molto famoso in quella città che si chiama Joe Pitka, che è stato anche lui un grande padre della mia vita, però è famoso per essere molto cattivo. Oliver si è fidato perché sapeva che Joe Pitka era molto, molto, molto esigente in montaggio. Poi decise di darmi una chance e mi ci siamo incontrate. È stato bellissimo incontrarlo perché subito ho capito, si sentono tante cose di Oliver, che è cattivo, che è severo, che è strano, che questo. In realtà è una persona molto intelligente, molto funzionale in quello che è il montaggio, la storia, e come appunto uno è uno scrittore, poi anche, perché è un po' quello che sempre dico anche a mio figlio, no? La realtà è quando si incontrano delle persone di qualità, di grande qualità, è istantaneo. L'emozione di certe cose, no? Tutto improvvisamente, è stato così, e poi dopo mi sono messa a montare la prima sequenza, non ho mai smesso, è stato 9 mesi bellissimi, dove nei nostri incontri, perché lui ci lasciava molto da soli, ci incontravamo una volta a settimana, i nostri incontri erano molto discussioni anche politiche, quindi era anche il perché voglio montare comunque un documentario. È importante capire come ti pone rispetto al soggetto, togliendo, aggiungendo, contrapponendo, eccetera. Certe cose ovviamente manipoli, no? Non esiste oggettività. Nel momento in cui monti una cosa, è la tua versione di una situazione. Per cui, perché ogni volta fare certi tagli erano delle bellissime, interessantissime discussioni. La tirannia ha sido derrotata. L'allegria è immensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. La prima volta. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Qualcuno mi ha ricordato, qualche sera fa, che una volta ho detto la verità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché vedete, è la verità che spinge il mio amico barista a comprare 3 case che non può permettersi senza dare l'anticipo. I signori degli hedge fund se ne andavano a casa con 50-100 milioni di dollari l'anno. Così anche il banchiere si guarda intorno e dice mica sono l'ultimo imbecille. E comincia a usare la leva finanziaria sugli interessi fino a 40-50 a 1. Con i vostri soldi. Non con i suoi. Con i vostri. E glielo lasciano fare. Tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Oliver Stone è il regista di Wall Street, Platoon, Fuga di mezzanotte. Parallelamente ai film, lavora a documentari come quello su Fidel Castro, dal titolo Comandante. Dietro al montaggio di Comandante c'è un'italiana, Elisa Bonora. Elisa è la donna che professionalmente Oliver Stone non lascerà più. Dalla prima volta, da quando per caso Elisa Bonora entra nella vita del regista, le cose cambiano, decollano. Il capolavoro di questo incontro è il meraviglioso documentario South of Border, in cui in fila, uno dopo l'altro, sfilano i capi di governo del Sud America a raccontare la storia del continente latino. Un capolavoro prodotto e montato praticamente a costo zero e che diventa in un attimo l'emblema di un continente intero. In questo estratto, la figura di Chavez. È stato doloroso vedere le bugie e la mancanza di rispetto per le persone. Ma poi ho capito che è un gioco e qualunque cosa faccio, posso vestirmi da prete, con un bel cappello rosso in testa, continueranno sempre a chiamarmi tiranno. Il popolo sa la verità. Io capisco l'approccio provocatorio di Chavez. Dopo il golpe ha cominciato a sentirsi in guerra. George W. Bush. Sei un asino, signor Bush. Beh, la prima cosa da sapere su Chavez è che è nato in una misera capanna di fango ed è cresciuto in povertà. E questo ha influito sulla sua visione del Venezuela al punto da considerare la trasformazione del paese la sua missione. A giocare un ruolo importante in questa prima volta non è stato tanto il caso quanto una combinazione di cose e di persone. Una persona soprattutto, Giordano, il figlio di Elisa Bonora. Quindi quando Giordano è arrivato a una certa età, in cui lo vedevo, che vedeva, che capiva cosa stavo facendo, è stato importante per me scegliere delle cose in cui lui, vedendomi, potesse comunque imparare o comunque entrare in certi discorsi che erano importanti nel mondo. Quindi la pubblicità è diventata un po' meno. E quando ho cominciato a fare Castro, lui è sempre stato seduto con me in Mugnola. E quindi lui sa tutto, sa tutto di Che Guevara, sa tutto di Fidel Castro, sa tutto di tutto. Cioè ogni volta che io entro in una storia, lui sa tutto, non solo, ma sa già montare, non lo so, che una sala grande, però vuol dire comunque è molto, i bambini sono molto dentro, se i grandi genitori lasciano, è importante che sono parte della nostra vita. Io vedo la mia sala di montaggio a casa, lui per una scuola si siede e vuole vedere cosa faccio, parliamo Cuba, parliamo di Chavez, di Venezuela. Quando gira un film o un documentario, Stone lo fa con tante cineprese e formati, usa il VHS, la pellicola, una montagna di materiale da districare in sala di montaggio. Elisa Bonora è la persona che Stone ha scelto per questo lavoro, incidendo sulla sua vita un'impronta indelebile. Molto difficile, perché all'inizio comunque ci si vede davanti a 200, 300 ore di materiale che non hanno né capo né coda. Dove magari un regista è stato in una storia per 3, 4, 5, 6, 7 anni, delle volte arriva e con tutto questo materiale che va pensato in un certo senso, riscritto in montaggio, e quindi ogni volta è un'esperienza, da un lato angosciantissima, perché è una responsabilità enorme, e dall'altro però quando poi finalmente le cose cominciano a prendere la loro forma e cominci a trovare le idee, trovare la struttura, è molto emozionante e eccitante. E ogni volta è come la prima volta. This won't be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe. La prima volta di oggi è la storia di Elisa Bonora, una ragazza milanese che appena uscita dalla scuola di cinema parte alla volta degli Stati Uniti. Un destino incerto, paura di fallire e tanta passione. Oliver Stone è il regista e l'uomo che ha sputato verità crude in faccia agli americani. Elisa è una donna coraggiosa, capace di rischiare, che non nasconde le sue idee. È una madre che ha aperto le porte di casa al mondo e il mondo è entrato da ogni parte. Oliver Stone ha portato tanto, ma anche Elisa ha fatto la sua parte. Questa è la sua prima volta. Oliver è uno scrittore prima di essere un regista, è veramente un grandissimo scrittore, un uomo molto colto, molto intelligente, quindi è molto bello lavorare con lui. Io ho fatto due progetti con lui, uno su Fidel Castro e uno su Chavez. Su Fidel non c'era nessuna sceneggiatura, non c'era nessuna idea precisa, c'erano abbastanza poco materiale, c'erano 30 ore di lui e Castro, bellissima intervista di 30 ore, e poi avevamo tutto il materiale di repertorio. Quello era tantissimo, però la struttura da inventarsi, e lì è stato molto carte blanche. A me e Alex eravamo in due montatori, perché Oliver lavora sempre con almeno due montatori. Su Chavez era un po' diverso, avevamo invece una sceneggiatura molto precisa, anche fin troppo, perché comunque era importante avere una sceneggiatura, perché è un documentario anche sui media e sulla storia dei media rispetto a Chavez, per cui avevamo bisogno di una traccia storica. E poi comunque quando poi sono andati in montaggio è stato un doppio lavoro, perché prima monti la sceneggiatura o comunque la script e poi lo smonti e lo rimonti per quello che poi in realtà, essendo un documentario, poi hai di materiale reale. Quindi è stato il doppio lavoro, ma sempre molto bello con Oliver, perché comunque Oliver pensa in termini cinematografici, i suoi documentari sono dei film. Però comunque pensate primo, secondo, terzo atto con i personaggi, con le cose, con le musiche che sono cinematografiche, per cui è molto molto bello lavorare con Oliver, molto. E mi ha ridato voglia, quando ho incontrato Oliver nel 2003, mi ha veramente ridato voglia di montare, perché ho fatto tantissima pubblicità, di lavorare nei documentari, che è stata sempre la mia passione fin dalla scuola di cinema, perché all'Albedo uno dei personaggi che avevamo incredibile era Samuel Fuller, era un grandissimo regista americano underground, e abbiamo girato un documentario su di lui, è stato il mio primo esperienza di montaggio, e l'altro è stato quello. La vita di Elisa Bonora è una vita come tante, che un giorno però ha avuto una prima meravigliosa volta. Montare comunque, solo montare materiale per suono in un modo o in un altro, scegliere, togliere, tagliare, contrapporre, questo, mettere certe musiche, tutto questo ovviamente è completamente soggettivo. Questo con Oliver è stato ovviamente farlo calcolare, è stato bellissimo, da lì non ho mai più smesso di fare documentari, ho ricominciato, è stato uno dopo l'altro, poi mi è venuta questa idea di comprarmi, era una vita che volevo comprarmi questa rullottona argentata che si chiama Airstream, che proprio è il simbolo americano degli anni 60. E me la sono comprata, me la sono rimessa a posto, una cosa degli anni 60. Come io vivo alla fine, all'inizio di un parco nazionale, alla fine di una strada in un bellissimo parco. Lo sono messo davanti a casa nel parco nazionale e lavoro lì. La prima volta termina qui. Vi ricordo che le puntate sono scaricabili. Potete andare sul sito radio24.it e cercare la nostra trasmissione. Se avete voglia, potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. La prossima settimana con noi ci sarà Caro Figlio. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Ci risentiamo domenica sempre attorno alle 13.